Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Si intitola L'allieva ed è il primo romanzo di Alessia Gazzola, pubblicato da Longanesi e diventato un po' un caso editoriale. La protagonista è Alice, una giovane specializzanda in medicina legale, esattamente come l'autrice. Si trova un po' per caso a indagare sull'omicidio di una ragazza conosciuta poco prima. Ma sentiamo come l'autrice descrive la sua protagonista. Alice è una specializzanda in medicina legale, come me del resto, però poi diciamo, i punti di contatto fra me e lei finiscono qui, in realtà non è il mio alter ego. Alice è una ragazza temeraria, pigra, indolente, maldestra, goffa, in poche parole non ha nessuna delle caratteristiche che più si addicono a un medico legale. E purtuttavia lei adora la medicina legale, vuole farlo, ha questa grande passione, però combina un sacco di guai. È anche malvista, insomma, all'interno dell'istituto dove lavora. Ma più che altro naturalmente la reputano non affidabile e in fondo hanno anche ragione. Lei è fatta così. Ha a che fare anche con un collega e suo superiore, Claudio. Che tipo di rapporto c'è? È un rapporto da parte di Alice di venerazione, prevalentemente professionale. In realtà da parte sua c'è anche quell'innamoramento che a volte si ha nei confronti di qualcuno che si stima molto da un punto di vista professionale e quindi ha un innamoramento che non è solo intellettuale, a volte sfiora quel qualcosa in più. Da parte sua lui la vede come una peste, ne è intenerito, lui non ha ben chiaro cosa prova nei riguardi di Alice, a volte gli dà fastidio, a volte ne è intenerito. Che rapporto invece c'è fra Alice e la sua coinquilina giapponese? Ma è un rapporto che per Alice è liberatorio, nel senso che è la sua valvola di sfogo rispetto alle tensioni che lei vive quotidianamente. Alice la definisce il mio lare familiare, il custode della mia casa. Cioè questa ragazzina giapponese, un po' più piccola di lei, che studia lingua e letteratura italiana, con cui lei divide l'appartamento, le mette allegria, cucina per lei, minimizza i suoi piccoli grandi drammi e quindi per lei è assolutamente una figura indispensabile nel suo universo emotivo. In questa vita apparentemente normale succede qualcosa, cioè succede un delitto sul quale Alice deve indagare. Che cosa accade? Accade che Alice in maniera del tutto casuale conosce durante un pomeriggio di shopping una ragazza e ne è in qualche modo affascinata, perché poi Alice tra i vari tratti del suo carattere ha anche quello di subire il fascino un po' di tutti, nel senso lei resta incantata, si innamora delle persone. E è una grande osservatrice, le piace prestare grande attenzione ai dettagli e lei viene colpita da questa ragazza durante questo pomeriggio. C'è un rapido scambio di battute, niente di più. Eppure lei prova quell'entusiasmo che le capita di provare in realtà anche molto spesso. E il giorno dopo lei poi partecipa a un sopralluogo e scopre che la ragazza morta è proprio quella che lei ha conosciuto il giorno prima. Quindi al di là dell'interesse scientifico che lei ha e che deriva dalla passione verso la professione che svolge, c'è anche questa componente, questa curiosità umana, questa empatia, questa compenetrazione che lei ha nei riguardi di questa ragazza. Da qui inizia dunque un'indagine. Sì, è un'indagine parallela ai limiti dell'illecito che lei svolge, lei si improvvisa detective combinando un sacco di guai, perché lei li compie già nel lecito, figuriamoci nell'illecito. La vittima è una ragazza della borghesia romana. Chi è questa ragazza? È una ragazza che ha alcuni segreti, no? Ce li abbiamo tutti, ce li ha anche lei. Lei è una ragazza difficile, una ragazza che viene da una situazione familiare piuttosto particolare, orfana, e ha soltanto una sorella e poi la zia con cui è cresciuta e un cugino. Ed è assolutamente una ragazza difficile con un'impulsività molto forte. Come è nata l'idea di questo romanzo? È nata come, cioè non è nata in realtà proprio come un'idea o come un progetto, era per me semplicemente una valvola di sfogo dalle mie mattinate in istituto, che spesso mi costringevano ad approcciarmi con realtà abbastanza turbolente. Allora ho pensato di scrivere un libro che in realtà fosse una commedia ambientato nell'ambiente medico-legale. Per me serviva anche in un certo senso a divertirmi, perché io facevo capitare ad Alice le situazioni più sadiche in qualche modo che possono succedere a una specializzanda, quindi per me era veramente un divertissement. Ma è vero che all'inizio questo romanzo non aveva quasi nulla di giallo, diciamo, le tinte gialle sono state inserite dopo? Sì, è vero, perché inizialmente era una storia, semplicemente era la storia di questa ragazza, e dopo averlo finito l'ho riletto e mi sono accorta, ma questo lo dico da lettrice, non da autrice, che poteva essere più interessante inserendo appunto dando corpo alla storia di Giulia, perché c'era, però era semplicemente in germe, era un qualcosa che lei semplicemente sfiorava. E quindi ho pensato di riscriverlo e poi rileggendolo per l'ennesima volta mi sono detta eppure io un libro del genere in libreria lo comprerei, mi piacerebbe trovarlo, e quindi da lì il tentativo di pubblicare. Alice infatti sembra più una Bridget Jones che una Kay Scarpetta, il personaggio di Patricia Cornwell. Tu a chi la vedi più somigliante? Ma assolutamente Alice è sorella di tutte le protagoniste dei romanzi Ciclit, dalle protagoniste della Kinsella, totalmente improbabili, a Bridget Jones appunto, e quindi io la vedo molto più simile a loro piuttosto che a Kay Scarpetta, alla quale è accomunata senz'altro però dal grande entusiasmo nei riguardi della professione, da un senso anche di rigore che chiaramente condividono, però anche qui le similitudini sono abbastanza esigue. Hai citato la Ciclit, spesso le scrittrici non amano questa parola, la letteratura per pollastrelle, insomma tu non hai paura, non hai vergogna a citarla e a riconoscerti un po' in questo genere? Ma no, assolutamente, io non ho né paura, men che meno vergogna. Io penso che esistano libri per tutti i tipi di pubblico. È un pubblico per tutti i tipi di libro, c'è tanta varietà e nessuna ha meno dignità letteraria dell'altra. Ecco, l'importante è lo spirito con cui si fanno le cose, cercando di farle al meglio. C'era quella breve poesia, forse non era nemmeno una poesia, no? Sì, il meglio di qualunque cosa tu sia, ecco, è quello che io ho applicato. Io non ho la pretesa di aver scritto alta letteratura, tra virgolette, però ho fatto di meglio di quanto io potessi fare. Questo è il tuo primo romanzo, come sei arrivata alla pubblicazione? Ci sono molti ragazzi che hanno il cosiddetto romanzo nel cassetto, insomma, tu come ci sei arrivata? Ma io ci sono arrivata attraverso un'agenzia letteraria, perché desideravo avere un confronto con la realtà. Mi sono detta, trovando un agente letterario, questo agente letterario può dirmi se effettivamente il mio manoscritto merita un'attenzione, se è pubblicabile, altrimenti per me è anche inutile spendere così tante energie. Magari io continuo a scrivere per me stessa, per diletto, però senza credere né investire così tanto nell'idea di una pubblicazione. Quindi è nato questo approccio con l'agenzia letteraria più come un confronto con la realtà, con le mie reali potenzialità, che altro. In realtà poi la mia agente letteraria, quella che poi è diventata la mia agente letteraria, il libro l'ho amato molto e da lì è nata la storia, perché mi ha presa in carico e mi ha trovato questo contratto con la Longanesi. Che consiglio daresti ai giovani che hanno il cosiddetto romanzo nel cassetto? Beh, innanzitutto di curare moltissimo la forma, di leggerlo un'infinità di volte fino a quando non lo conoscono a memoria, di non aver paura di demolirne pezzi interi se sanno che può uscire se può uscirne migliorato. E poi consiglio la mia stessa strada, cioè quello di interfacciarsi con dei professionisti del settore per avere un'opinione sincera, perché nessuno ha l'interesse a non pubblicare un libro che vale. Il tuo è stato un po' un caso letterario, ti aspettavi tutto questo successo? Assolutamente no, perché io sono una pessimista di natura, continuo a esserlo, infatti dicono che è stato un successo letterario, io dico ma veramente, cioè non ne sono convinta, non lo so, perché sono molto pessimista, quindi figuriamoci se me l'aspettavo, stento a crederlo, figuriamoci se ci pensassi già da prima. E questa era Alessia Gazzola, autrice di L'Allieva. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it, anche in formato podcast. Un saluto da Alessandra Tedesco.